18 maggio 1940. L'osservatore è morto e con lui l'ultima voce della libertà e dell'onore d'Italia. Ormai non rimarranno che le schiamazzanti menzogniere volgarità del giornalismo venduto. Non leggerò più giornali.